Grazie, l'antenna, ciao. Ma e se dico chi sei, come la mettiamo? Fai figura di merda poi. Allora te lo aiuto, grazie. Non manca che un signore buono. Pino! Questo non è lo stesso portante però. Ehi, non è distante da me, dai lui. Non è distante da me, dai. Che altro dico su WhatsApp. Non è distante da me comunque, dai, perché il segnale è praticamente, vabbè, dai. Il bip già l'ho riconosciuto. Erano in 4 in radio, il microfono è 3 più 3, MB più 5, quindi un buon intenditore, poche parole, hai capito? Sì, sì, sì, però mi sembravano due a me le portate, perché il bip era leggero, leggero, molto lontano. E a passemmo, se no, lasciamo entrare. Ma guarda già che cagassotto con un segnale a Santiago Nubi, ma lascia aperto. Quanto che sento a Manuele, a Franco un po' lo disturba, ma a Manuele no. Quindi tu poi non faccia, non fa testo, tu e Tino non fa testo. Quindi se io passo bene lì, se fosse stata la veloce non mi avresti sentito. Invece qua, perché te ti arriva 8, a me mi arriva quasi 9 più 10, quindi. Oh yeah yeah, ehi, KK, va bene, lascia un bacio a fare il beccio. E beh Manuele, quindi, e poi niente lo guru, eh? Perché non ce la faccio più, stare così, non ce la faccio più, infatti lo zero letto, ho però chiamato il dottore, è andato Luca a prendere l'impegnativo, ha pigliato le medicine e me l'ha fatta. Ha fatto bene, poi ti sta facendo anche le punture, stai sereno perché già ti passa, cos'è? Muscoli e voltere? Ehi, speriamo, speriamo che cazzo che mi sentono da su, cazzo che mi possa passare su, che ci dolori. Già ti bassa, ma lo curo ti brucia quando ti fai la puntura? No, sinceramente qua, sinceramente no, l'ho massaggiato, ma no. Ma lo devi sentire il bruciore della medicina, è quello importante, capito? Perché se senti il bruciore della medicina, allora è ancora, va ancora meglio. Ma poi da me, Olu, non intendi manco il bruciore, immagini già di tu che con il duccio. Ma si spunti l'ago però, quindi si intendi l'ago. Se spunti l'ago fa male, no, non si fanno altre cose. No, ma se poi Luca è pratico, che problema c'è? E infatti, che c'è facendo un impatto? No, il fattore qua si cacca. Non si deve lamentare, ma non si deve lamentare. Io ti sento lo stesso, non ti preoccupare. Interrogare la gente. Tu già, ho ti avuto a Manuele. A Torino ho sentito Emanuele, cazzo il letargo, è dove andresti a travagliare il letargo. No, non l'ho sentito, mi ha chiamato ieri per vedere come era andata la visita e poi passa. Ma la gentile. Stavo dicendo qua, poi l'hai trovato il numero di Giovanni. No, ci siamo arrangiati con Luca e però l'aveva già venduto fra. Ah, capo. Beh, era appetibile il fatto che fosse un HF con i 50 mega. Poi gliel'avevo dato io, quindi conosco molto bene quella radio. La conosce anche Luca, il prezzo era appetibile, è chiaro che anche se era sporca, cioè poi non ha giù compreso che era tutta brutta. Se fai la foto, cazzo, fagliela pulita, una radio se la devi vendere, no? Mi ha detto Luca, ha giù visto, mi ha mandato la foto Luca, era tutta paria una bizza, paria tutta infarinata era. Addirittura, non ci posso credere, Bobo. Cazzo, se metti una cosa a vendere puliscila, rendila carina, no? La vita Luca, infatti le ho offerto la metà a Luca perché ho detto cazzo, boh, mi sembra tutta sporca, tutta, magari non funziona qui e là, invece sicuramente funziona. E Luca l'ha contattato su Facebook e gli ha detto che l'aveva già venduta. Vabbè, pazienza, no? Era una radio che potevo prendere di scorta, ma niente di particolare, giannaggio di radio, voglio giannaggio radio. Vai Luca. Ah, io gli avevo offerto 100 euro, sinceramente. Gli ho offerto 100 euro. E lui sa anch'io, perché poi quando mi ha detto, ma c'è, non te ne va a provarla. ha già detto, uno gli ha chissà una cosa da provare pure, poi come l'ho tutta impolverata, e io le ho fatto la mia offerta, proprio perché la stavo prendendo una scatola chiusa, ha detto, se da voi la radio non funziona più, la devi spedire e fare, no, ha detto, massimo quel prezzo lì, se poi si ha la fortuna che l'attacchi sotto l'antenna e funziona bene, allora è una botta di culo, ma così, quando mi ha scritto così, ha detto, più di 100 euro non si possono dare adesso, così, se mi sta dicendo l'antenna ce l'hai da provare. No, ma io te l'ho detto, siccome io ho un buon rapporto con Giovanni, non è che ci vediamo, sono un bel tempo che non lo vedo, però mi avrebbe detto la verità, infatti stavo cercando il numero di telefono, avrei telefonato, avrei detto Giovanni, quella radio mi interessa, è funzionante? Lui mi avrebbe detto sì o no, oppure mi avrebbe detto se aveva qualche difetto, al che il prezzo l'avrei fatto io, non l'avrebbe fatto lui, capito? Quindi, però hai fatto bene tu a fare la tua offerta, perché la radio era pessima, proprio impresentabile, cazzo, non si fanno le foto alle radio così quando le devi vendere, capito? Oh, era troppo sporca, ma quella radio era anni senza essere accesa, secondo me, è tenuta così sopra un mobile, come si vede, tutta piena di polvere, in più mi dici, ce l'hai l'antenna per provarla, e a me mi è sorto il dubbio, ha chiesto, si deve andare a casa sua, per la radio, lì devo dare i soldi, uno deve stare anche tranquillo, no, se ti dirigiamo così, allora io ho detto, meglio fare un'offerta, se per una certa pazienza, capito, mi dici veramente che le dai di là e la radio non funziona, cosa fai, no? No, ma infatti, io ti ripeto, quando sono andato a prendere il 910H, sono andato a Budoni, capito, sono andato a Budoni, mi ha accompagnato un amico a farmi compagnia, sono andato a prendermi, l'ho provata lì sul posto, e ho provato tutto, perché questo c'aveva tutte le antenne, perché me la voleva spedire, ho detto, guarda, non spedire niente, dimmi quando sei a casa, fissiamo un appuntamento, eravamo al periodo estivo, gli ho detto, io vengo a trovarti, mi ha detto, guarda, io alle 3 sono a casa, perfetto, siamo partiti che era mezzogiorno, siamo fermati a Olbia a pranzo, abbiamo pranzato, verso le 2:15 siamo partiti, da Olbia è vicino, capito? E siamo andati, la Gibruada, tutto, gliel'ho pagata e me la sono portata via, perché come stai dicendo tu, se me la spediva e c'aveva un difetto, cosa dovevo fare io? Ridinavi la via Iaedo. Poi non so a chi l'ha data, sinceramente, probabilmente l'ha data a qualcuno di qua, perché come fai uno di fuori a dargli 200 euro senza sapere neanche se funziona? E gli su, probabilmente l'ha comprata qualcuno di qua. Non lo so se l'ha comprata qualcuno qua a Sassari, può darsi pure, perché ti ripeto, una radio eccezionale, io l'ho usata, l'avevo comprata per i 6 metri, quando ci hanno assegnato i 50 mega avevo comprato quella radio lì, perché io avevo il 140 allora, quindi facevo col 140 HF e poi facevo i 6 metri con quella lì, e avevo il dipolo, ti ricordi che avevo a te, uno di quei dipoli autocostruiti, giusto così, e funzionava benissimo la radio, capito? Il 27 non l'ho mai usata perché usavo il 140 e 27, però la radio funzionava molto bene, c'era tutto, va bene come radio, qualità prezzo andava bene, e gliel'ho venduta a lui quando abitavo in via Pascoli, quando mi ero trasferito per quei pochi anni in via Pascoli, capito? Quindi a me me l'avrebbe data a provare, ha detto già va, io la provo, la pulisco, la provo tutta e poi dirà bago, se vuoi e così, se no te ne dirà dentro l'armadio, a me me l'avrebbe data, te l'ho detto. Ma magari l'avrebbe data anche a me, capito? Però io sinceramente non gli ho fatto la mia offerta perché non l'ho già avuta quella lì, capito? L'ho già avuta. Ma quindi lo crepo in pieno a Luca? Non lo gioco, lo fa vedere in due a vedere. Oh, ma è Luccato! Vero! No, aspetta, parlate in due. Prova Luca, dai, prova, 1, 2, 3, prova microfono, prova di modulazione, 1, 2, 3, cambio. Oh, e gli intese il latino. Se non stavo parlando, per forza. Ci avete due segnaloni qua, ottimo per la truppa, no? Non c'è problema. Provati, sì, 1, 2, 3. Provati, hai detto che è cartello, che è morto il cartello. Avete parlato in due. Non agganciare, prova. Prova, 1, 2, 3, 7, 9, come cambio? No, a tutti. ti crepa, no, lo ci voglio credere. Prova ora, io Luca. Dai, io provo 1, 2, 3, 7, 9, 25, come la radio K. Cazzo, ti crepa. Sì, ma lineare c'hai lui? No, io no, mi fido neanche a me. Cioè, Tino, aio, neanche con lineare riesci a passarlo. Non ci voglio credere, cazzo. Vogliamo di me? Asciuga. Allora, ma di poco, perché lui è 9 più 30 quando mette tutta la potenza, e tu sei lì, 9, 26, 27, 25, di picco sali a 30, capito? Ma lui è 9 più 30 l'importante. Ah, così, aspetta, dai che pompo, vai Luca. Ti sento sotto ma non ce la fai, ti. Bene, ma vuol dire che devo prendere un'altra cosa. Cazzo, vamos. Tutto satro, senti. No, non sono satro. Satro sei tu, satro era corrotto. Adesso no. Cazzo, ne ha geniale, vai lui. 9 più 30 sei l'importante, mentre lui arriva a 9 più 30 sul parlato, capito? Per quello lo passi. Sì, però qua ci sei considerato anche una cosa, qualche chilometro indietro insomma, Non c'è discussione, lui è molto più avanti di te, più aperto verso di me, magari la fai con un altro e passi tu, capito? No, non è quello il problema, però avete dei segnali allucinanti. E come che io faccio la prova con Castelsardo? Hola! Se fai la prova con Castelsardo hai vinto in partenza, non posso attaccare, manco un ghilo va t'attacco. Senza che guru vighilo fate me baci. E quando c'è l'apertura, c'è l'apertura, non c'è niente da fare. Vabbè, va, fa una cosa, con una scusa, chiama Luca, io vado a casa sua e gli metto un chilo nel cavo, tanto già solo l'ho trovato. Cazzo, a chi è che l'avevo? No, forse non ero con te quando l'abbiamo fatto, ma non me ricordo. Cos'è che l'avevamo fatto? Te la metti chi su di Carbonatti che parlava con la voce rauca, a quelli l'avevamo messo lo spillo nel VG58 della finestra. No, l'avevamo fatto anche Antonio Pinguino. Ehi, Antonio Pinguino, cazzo, sì, allora ce l'ho anche io, cazzo, ce l'ho Gavino, cazzo, aveva bruciato tutto, cazzo. Bene, dai, mi abbasso a sonetta. Tocca! Oi! A proposito, guarda che serve, ce l'ho il 747, ma mica lo bonghirobino. Capito, a chi serve? Scusami, Luca, cosa non metti mai a casa se hai già 50 watt di radio? Infatti, non ci provo neanche, a mettere il 747 qua, ma stai scherzando, ma non ci provo proprio. No, lui mica lo bruci, io avevo attaccato il BV2001 al 140, l'ho bruciato in finale. No, per quello non lo metto, non mi fido neanche, non mi interessa neanche tra l'altro. Ce li hai fatti questo, se serve a qualcuno ho detto. Non lo so, io ce l'avevo dato a Antonio. Avevo venduto Antonio perché ne ho tre, c'ho il B300, c'ho quello dell'RM Italy, capito? Ma non li uso perché c'ho il valvolare, c'ho il TL911 o quello della Kenwood che è prima del TL922, quindi volendo uso quello perché c'avevo l'FL2100 della Iese, l'ho venduto, mi sono comprato quello lì usato che è migliore, quindi no, non ne ho bisogno di lineare, poi esco col K, la potenza ce l'ha, quindi cosa ne vai dello lineare? Oh Claudio, guarda un attimino se ha cambiato la modulazione. No, va bene, tira la modulazione. Aspetta un attimino. No, eccolo qua. Questa è la massima portata che ha, non di più. Prova Luca, guarda, tanto poi abbasso. Prova. Lì siete così, Capisco e non capisco, i segnali sono quasi uguali. No, aspetta che posso migliorare. Prova Luca, vai, ora. Mi senti, però c'è Tino sotto che ti disturba un bel adesso. No, perché ho un lato io, prova. Hola. Mi senti, Claudio, mi senti? Eccomi. Sei tutto santo, Rotti. Boh, io non capisco neanche quello che dici. Da Claudio magari no. Per forza, Luca, sei abbassato. Per forza, sono santo. Lo so, con 250 watt è logico che a te ti arrivo santo. Magari a lui no. No, a me no. Però adesso ti disturba parecchio, Lu. capisco in parte quello che dici, mentre prima invece capivo tutto quello che dicevi. Adesso guarda, diciamo che come 150 volt, però. Beh, come 150 watt è chiaro, se invece usa la... Quanti watt ti dà il 707? 40, 35 AM, non è che mi dà da assai. Ma c'è un buon segnale, con 35 watt sei 9 più 30 pieno, sul parlato vai anche oltre il 9 più 30, mentre Tino invece è leggermente più basso del 9 più 30, sul parlato arriva 9 più 30, ecco perché ti capisco, capito, ma siete lì, Guarda, aspetta un attimino Luca, adesso questo qua mi sembra che ha altre due posizioni, perché così ha 40-50 watt, così ne ha quasi 100, poi magari cambia la modulazione, così sono ora 200 watt, 250, ora. Non so se ha cambiato il segnale, No, non cambiati il segnale, non lo mettere in sesta, lascialo in quinta. Allora, aspetta, devo abbassare, così va bene, allora cioè, no così, forse è troppo, sta saturando. No, da me non saturi, da Luca sì. Com'è Luca? 1, 2, 3, prova? No, anche comprensibile sì, e se 9,50 se sta per amplificatore? No, ma adesso basso di una tacchetta ancora, va. Lotta tu, perché tu hai tutti i segnali alti, Luca. Adesso ne ho tolto un altro scatto, guarda, così è come solitamente lo uso io. No, non è cambiato niente, lo sai, questo è attacco, così che, però non ho, sentito che hai staccato, che hai fatto, però non ha cambiato il segnale. Vabbè, ma la radio ha cambiato però, se c'è qualcosa di anomalia da questo passaggio, a questo passaggio invece, se cambia qualcosa di radio, capito? Quasi niente, impercettibile se c'è. Sì, anche qua, proprio leggera leggera. No, ho perso l'appello, sacco anche questo, già va bene. Quindi sono come il 747. Ma c'è importante. Oh, una portantina c'è già da poco fa, ma non vi disturba. Raga, io me devo allontanare, devo andare a portare il cane, ci sentiamo dopo. Io riprendo a casa, Aglio. Ma attendi, Ocla. Fatto un altro. Cosa, Lu? Attendi, Claudio, mi ha mandato un messaggio che... daranno forti venti sino a oltre 100 all'ora. Eia, c'è il vento di maestrale domani, venerdì e sabato, vento di maestrale, raffica e forte. Speriamo che caccia ragione all'antenna, Lu. Sì, però se c'è un po' di vento, non mi dubbi che piova. Ho capito, ma io preferisco più che faccia raffiche di vento oltre i 100 km all'ora, uscire che ne fare l'antenna raggiura e non ne la dobbiamo buttare noi, capito? Vabbè, io la moneta è come un segno. Se ti ingaggi da marito quasi, ma assolutamente ne può mai cadere con l'antenna. Dai ragazzi, io vado a portare il cane, ci sentiamo dopo se ci siete. Ok, ciao a tutti. Vai a portarlo. Cosa? Ho detto vai a portare il cane, popparo! Se già è bascio! Non abbascia ancora di più, Non è bascio, che già è abbastanza bascio. E infatti adesso vado all'opposto. Dai, ci sentiamo dopo, ciao! Mia, Maurizio! Lore! Attento, vai in cumio! È entrato, la tua benedizione c'è andato, E comunque lui, non l'ho sentito. Pazienza. Sicuramente chiamerà domani e domani ci andrà a prendere materiale. Vediamo. Piacenza di cashmere. Poi salta ci ha portato al sugo. Davvero? Certo, a proposito nei bucarubani. Noia! Ecco la brodo dove è andato a finire. Attenzione, il culo di colabrodo. Mannaggia, c'è andato. Culo di colabrodo. Sì, anche eccitato, ok. Forti. Sì, anche eccitato. Anche la mamma sì. Ci sono stati i peli però solo. E dopo che cosa? Domani mi passa il foro, va bene. E domani faccio i colpi soliti. Ma dimmi una cosa, non la cominciamo a dire? Probabilmente perché passavo in mezzo ai peli, sembrava in Vietnam. Dico! Ho faccio perché fatto un bastardo. Ah, si grullava, Otti! Ma lui è combattuto come le spade, no? Ma non gli è piaciuto, insomma. Ma io toglio, fammene un'altra. Cosa, il bacino l'altro dirai dopo. Ha messo la mascherina. Per carità. Ogni giorno così fate. Sì, allora. Ora vengo come spettatore. Sì, me fa il video. Adesso domani l'altra schiaffa rispetta. Sì, Ginko, prima una con l'altra, tu in mezzo. Sì, sicuro. Sì, in mezzo. Ma così, per me è fatto così. Ormai è iniziato a finire, perché sono a cura, non va in porto. Io mi auguro che mi passi a te, se dolori, perché non ce la faccio più, perché io a fare punture non sono uno che mi piacciono a farle. Ma cos'è, mal di schiena? No, è l'allergico, Ciotti. Sì, ce l'ho con un anno, più di un anno così. Sì, ma guarda, Luca te lo cambia quel disco. Ma a parte gli scherzi, è un casino perché un mese fa stavo camminando piegato dal dolore. È un casino, sì. Quando così, stavo facendo un lavoro insieme a Luca, credimi, la mattina mi faccio fare le punture. La maggior parte del lavoro l'ha fatto lui. Ma ti sono guariti questi dolori qua, dai, in 2 giorni? Insomma, una settimana buona, la seconda settimana ho iniziato a fare qualche cosa, vero lui? Ma stavo anche lavorando lui, Emanuele, capito? Non era a riposo, come te che ti puoi sdraiare per dire. Lui lavoravamo tutto il giorno poi, se credi, puoi immaginare. Sì, a carro in passo, perché io facevo la roba dritta e lui tirava la riga, sono toccato a me, capito? Quindi mi ha agevolato in quello, ho detto vabbè, allora rimango dritto, lo ti porto il cemento, poi almeno rimango dritto, se no lui è mio dolore. Ma non possiamo girare, ma è il disco c'è anche. No, io 2 o 3 volte ben inclinate e poi ho avuto un brutto incidente in moto, quindi mi ha aggravato un pochino. Però grazie a Dio, guarda, voi la verità, da quando mi ha fatto le punture, quanti anni sono passati, Luca? Infatti io stavo dicendo a Emanuele, forse 3-4 anni, io stavo dicendo, la molta gente non è più tornato, ci sono quelli che se li fanno ogni una volta all'anno perché poi il dolore secondo me ritorna, ma una volta all'anno si buon esempio fa comunque, per fare il bene tutto l'anno poi. Sì, sì, è vero. No, aspetta, 2 anni fa ho fatto la palestra. Sì, 3 anni fa, sì, 3 anni fa circa, grazie a Dio, non mi è venuto più il dolore come prima, magari qualche dolorino sì, ma sopportabile, poi quando scaldi ti passa, capito? Allora vediamo, dai, adesso vediamo, non so che mi passa, ma se non me la faccio camminare, mi faccio un pezzo da qui alla farmacia di casa, mi sono fermato, e poi già, perché mi brucio un ragazzo, mi tocca, già lo già. Sì, vabbè, tu che puoi, che ti puoi riposare, ti conviene magari farti la puntura e nello stesso tempo ti rilassi, ti tranquillizzi, insomma, fa più effetto così, io l'ho mandato un po' sotto sforzo anche, capito? E anche per quello allora, anche per quello lì. Forti? Sì. Infatti l'ho detto a quello che mi dava carne d'asinello. Adesso prima di ammazzarlo, dammi un secondo che c'è un amico che c'ha mal di schiena. Di ragazzo. A incannizzarlo. E poi la filo dell'ora, mi. E che sì, se la prossima settimana non c'è né di carne, perché Emanuele ce l'ha tenuto a casa. No, ma quello te lo puoi tenere, perché il nervo non è che mi piace a me. Quello te lo regalo, Ginko. Ah, invece è una cosa tenera. Ma appena dato un po' l'oraio, sì, se me la lasciano, mi ho ordinato 5 kg. Ma quella lì è buona a fare la rossa e basta, alla piazza. Beh, alla piazza, era un amico mio, ma ha fatto assaggiare arrosto e a vino mondo. La giornata li mangiamo tutti quanti io, ho detto no, mangiatela tu, ma me dicevo, le mani molle. più buono al rosso. Ah, no. Giovanni Siciliano, con Luca, quando facciamo al rosso non ci basta mai, che... E poi con ditta. E chi ci vede adesso, vedi? Ciao Luca, come vai? C'è Marone che ti sta facendo la corte. Aspetta un attimo, scusate che devo fare una cosa in verticale. HB1. Boh, e chi è? HB1, c'è la scala di motore. HB1OP, Renato. E chi è? Boh. Siccome non me lo segna il telefono, perché si vede che è un numero che avevo cancellato. Boh. Mi devo accentare che devo ordinare la pizza, dai, devo fare un po' di telefono. Ehi, yeah, va bene, sentiamo dopo allora. Ma c'è rimane il radio? Ehi, lascia acceso, ma sta andando mia a scongelare il pane in cucina. Ma già lascia acceso. Quando io ho bisogno di cucinare io. Mi fanno vedere due pizze così al volo, grattiamo, ma vediamo un pochino, Ti chiamo dopo, Ehi, yeah. Te, a propagation. Chiamati su 23. Luca. Andiamo. Luca. Vabbè. Aspetta un attimino. Ecco qua. Chiamato. Qua sogno. Andiamo. Chiesa, bebo. Cattugi invece fa vedere no che sono tutti in PMR. Sole. Perché sei lì? Un po' qua, un po' là. Noi stiamo disturbando, ci andiamo alle 10. Aspetta che stiamo disturbando. Vabbè, perché loro la sera magari erano abituati a parlare qua. Ci stiamo disturbando, ci andiamo alle 10, non c'è problema. Andiamo tutti a 10. No, rimani occhi invece, va. Che noi dobbiamo andare sul lupo, sul lutto, fra poco me ne andiamo a mangiare. Ma sì, dai, vi saluto. Che devo preparare. Ora che ormai che è così non porto via. Ciao. Ciao, cosa hai detto, Fra? Ho detto che c'è avuto il piede attaccato, Fra, capito? Ma non mi sono dimenticato di salvarlo. Sì, bravo, G. Ciao, Tino. Ciao, grazie. Magari, grazie. Vabbè, dai. Buona serata a tutti, buon divertimento, le prossimine. Ciao, qua c'è chiudo. Ciao, bombolo. Sì, buonasera a tutti. Chi c'è qua? Sì, non c'è più nessuno, ormai stiamo andando tutti a mangiare. C'ero io, Tino, Luca, poi chi c'era? Franco, Califfo, insomma un po' di gente, dai. E capa, ma mi hanno detto che hai fatto di mare, vero, Cosa, Anto, non ho capito. Dito che vera gente che era ben di mare. E dove, qua? La bonde la portante. Sì, ma non faceva assolutamente niente, l'abbiamo ignorata. Se ne è così, bene. Dici che da cosa gli arrivava 9.25? E a chi? Persona. Sì, vabbè, se state lì cincischiando al telefonino, non entrate, non dite il segnale. Nella zona bassa era Santiago 8, qua era 9.5, poi se un segnale così alto, magari avvicino a casa sua, era importante saperlo. Poi, arrangetevi, a me non me ne dava fastidio. No, non era vicino a casa sua, era vicino a casa tua. No, stavo parlando con una persona, stavo parlando su ICMR, con Alessio, non è che... E mi ha detto che c'era questa portante che a lui gli arrivava così. No, a me mi arrivava più bassa, non dico così, un attimo Antonello, perché siamo attaccati. A me mi arrivava 9.5, 9.10. Allora è attaccata a casa Giulia, cosa vuoi ti dire? Non lo so, no. Ah, un trudio, cosa? Allora, sei così un trudio, attacco lo lineare, no, che manco lo bello mi cocca. Io sentivo a tutti qui, non me ne frega un cazzo. Dai Anto che vado a mangiare, ci sentiamo, ciao. Yeah, dai, ce la risentiamo, ciao. Ciao Antonio, ciao Claudio, buon carico, avevo tutto, anche io passo in QRT, saluto anche tutti gli amici che sono in ascolto. Per me QRT, se ce l'ho da tutti. Ciao Fra. E Franco, hai che tu segnare così forte? Forte, e questo è basso, sto uscendo con 10 watt, 5 watt appena. Sì, sì. Non ci credi. Dove sei, a casa tua o in campagna? No, sono a casa adesso, sto pilotando con un bipolo. Se non che arrivi forse. Quanto ti sto arrivando? 9.15 mi sta arrivando. In Campania mi arrivi molto, molto più basso, qua mi arrivi bene. Vuoi puntare verso la Bartimia, non lo so. Perché io non abito più a Latte Dolce, io abito da un'altra parte adesso. Sono in zona Corso Picco. Quindi cazzo mi sta arrivando forte. E scappa di positivo perché ci avevo il PL praticamente staccato, capito? E forse era per quello che stava arrivando basso. Sì, adesso va bene perché l'ho sistemato il PL che era risaldato. Sì, cazzo, adesso mi arriva forte, mi arriva abbastanza bene. Sì, oltre 9.15, sì. E io dove ti sto arrivando lì? 5.9 più 20, sì. Io posso ancora vedere un po' adesso in questo passaggio, 1, 2, 3, 4. Sì, a voglia, a voglia, a voglia. Ma si sente? Così va bene, sennò abbasso ancora, eh. Sì, sì, sì, sì, è perfetto qua. Sto contento, sto contento. No, se non si brucia il filo già posso aumentare ancora. No, tranquillo. C'hai uno di stazionare e va alla grande e va. E adesso l'antenna non ce l'ho più nel balcone, adesso io ce l'ho sul tetto. Ehi, capa di positivo, stazionario 1-1, eh. Io che manco si muove. Appena lago, ma proprio una... Come si dice? Proprio un'idea a me. Mi senti? Hola, prova. Ya. Ho detto, appena lago si muove per stazionare, ma un'idea proprio. E beh, sul tetto è tutta un'altra cosa, eh. E beh, certo, rende molto di più, capito? Cappa. Manco male, manco, faccio sempre un roccio di cupolo. Però già funziona, dai. Ah, qua stai arrivando bene, 59 più 20, sì, Antura. Va benissimo. A voglia. No, ma mi sentono forte un po' da tutte le parti. Non ho problemi, non ho. Non ho problemi. È stata di positivo ancora. Ora prova, 1, 2, 3, prova, radio 1, 2, 3, 4, 5, 6, ora. Ah sì, sempre con la 68. Cava di positivo, guarda. No, negativo. Ma sono con 68, sto pilotando con un'altra radio adesso, in questo passaggio, vedi un po', 1, 2, 3, 4. La voglia abbastanza forte. Ma perché non te la metti un'antenna un po' più come ce l'avevi una volta? Non dico una manzo qua. Ma ci sono tante antenne belle, mi ci sono, che non danno problemi, dai. E anche sto aspettando che sistemino le tegole sul tetto e dopo vedo un po' di piazzarla, capito? Guarda, la manza fa troppo pesante. Ti metti una Energy, che ce l'hanno quasi tutti, pesa poco e rende va fortissimo. Esci fuori a vero, esci. Energy, sei antenna, ma sentita? Della Midland, come tutte quelle che stanno usando adesso. Pesa 2 kg, pesa ed è una bomba, esce una bomba, ma forse però. Cazzo, la manto va bene, un sacco di chili pesa. Ma cos'è la Master? Ho capito. Ho detto, che cos'è della Master? No, della Midland. Della CTE Midland, dai. E la tua costa quella lì? Guarda, 90 euro da Tonino la compri. Dalla GBC. Ma cazzo, ma ce l'hanno qua, c'è un bel di gente, mi esce una bomba lì. Io ce l'ho andato da 5 in campagna, che la devo piazzare. Adesso ultimamente ho sistemato i radiali, capito? Perché c'avevo problemi con i radiali. Adesso dovrebbe andare, una volta che la piazza dovrebbe funzionare benissimo. Sì, adesso sono a casa, non sono giù, capito, Antu? E poi chi se ti tengo voce? Non ho problemi ad ascoltarti, ti ascolto benissimo, guarda. A voglia. E io sto uscendo con un dipolo adesso, un dipolo accordato, capito? Però stazionare ora non è perché neanche si può operarlo, diciamo. sto uscendo con la minima potenza adesso, perché se no l'abbasso. Adesso provo a vedere quanto dà, dai, di potenza. Prova radio 1, 2, 3, 4. Prova 1, 2, 3, 1. Oh, guarda un po'. Meglio prima. Troppo forte, adesso abbasso, aspetta, forse era troppo forte. Con la modulazione e stabilità. Così dovrebbe andare bene. No, no, come modulazione, è anche il segnale che ha passato. Adesso più alto, A voglia. Cappa. Aspetta, Vedo un po' adesso, 1, 2, 3, 4. Adesso, ma adesso va benissimo qua. Ti sento. Una meraviglia. Non posso aumentare ancora, tu se avessi combattuto, capito? No, non voglio rischiare. No, ma basta così, basta, cosa devi aumentare? Io sarà il caso di cantarci l'uomo qua a me. No, va bene così, a me mi arrivi bene, non ho problemi dato ad ascoltarti. Alla Tadolce avevo problemi, ma qua non ho nessun tipo di problema. Sicuramente è orientata la parte tua, capito? Sicuramente sì. È direttivo verso quella zona, ma anche a Claudio gli stava arrivando bene lo stesso, Io non ho nessun tipo di problema ad ascoltarti, va bene. Sicuramente è orientato verso questa zona, sicuramente. Certo che sì, sicuramente sì, capito? Cappa, ma come mai l'avevi tolta la mantofa da lì? Ne parata, no? Allora io ci avevo su tutte le antenne, tutte sistemate, col cavo e tutto. Il vento praticamente ha piegato il tubo, poi mi è scesa, poi sono andato a smantarla, praticamente mi è rimasta in mano, tutto lì. E poi, non so se l'avevo lasciata sempre nel terrazzo, poi un giorno sono salito, praticamente l'ho riportata giù, l'ho tutta sistemata, capito? E ce l'ho giù in campagna. Ah, cappa. Vedete un coso, un tubo che no, lo rigiazzai. Avevo tubo buono. No, il problema è che il tubo era buono. La cazzata che ho fatto io ho fatto il buco passante e infatti ha piegato proprio lì, capito? E poi cosa hai fatto questa cosa? L'avevo fatta per sollevarla di più, tu invece un casino, capito? Ah, cappa, mamanto va in chiso, chiusa cabezzuria. Non conviene piazzarne più, conviene piazzare un'antenna più leggera, ci sono forti, tipo quella che ti ho detto io, quella che vendrà GBC, ci sono altre antenne che rendono una meraviglia. Sono più leggere, non ti danno problemi. Quella lì ho 50 api, è quella che sto dicendo io. C'è la Nattarino, c'è la Coso, Macor Condor, c'erano un bel po' di persone, ma dico che sono felicissimi, sono, vende bene, o se no la Game Master come quella che c'ha Gianni, quella non ti dà problemi lo stesso. Cappa, adesso vedo, come vediamo un po' cosa metterci su. Un'antenna leggera, tu ci vogliamo mettere, capito? Noi vogliamo mettere queste antenne pesanti, con casino. Poi, nella zona dove abito io, diciamo che non ho problemi di avere antenne molto potenti, perché la zona mia è buona. Claudio l'ha vista, la mia zona è zona alta, Giulia, vedo tutto, porto a torre, tutto libero, capito? Io che mi ammetto, quando va via la manto, poi ci vuoi davvero. Finalmente quando si ciava, roba lì. Cazzo! Ah, esci forte però, intendi pure beh. Non c'è davanti andare sul tetto che si può forte. Non ce n'era, ho fatto un bel impianto con Claudio, poi ne avevo smartellato tutto, un casino, poi l'avevo ripiazzato, poi l'avevo smartellato. Ne è fatto un poco. Carità. Le radio ce le ho sempre, comunque non ho venduto nulla, si è avuto tutto nell'armadio, infatti non c'è funzione, ho detto qui la via si funziona in culo, purtroppo già funzionano bene, dai. Funzionano, stai tranquillo che funzionano. Kappa, vedo che ci puoi fare, c'è il coso, la 68 full. Sì, l'avevo sentito, cazzo. Va bene, così, oggi va bene. Questo c'è bene, la stessa foto da 5 watt, pilota a 10. Sì. E la radio comunque è già una serodina, se le tratti bene a tu già durano, capito? Se le tratti bene ti durano una vita, ti durano. Non hanno mai nessun tipo di problema. È certo che sì. E chi sta cantando in viraggio io? È sempre andente. Che radio stai pilotando? E il coso, l'Interc 550 Power. Ah, bella radio anche quella, là. Allora, giungo su che lecco. Hola. Piccola modulazione dalla città di Sassari, cambio, culo, prova. Allora adesso mi senti, cara, e ascolti questa piccola modulazione. Io già ti sento, già, no, qua è già regolato dalla casa, qua. Fai fare un passaggio attaccato all'altra radio a vedere com'è. Prova. Poi un attimo devo scambiare. Tutta cruci che scende a tu. Bebo. Arrivi bene, dai, tranquillo, non c'è problema, arrivi benissimo qua, capito? No problem, e ci abbassare un attimo la radio, che se no. Vai a innescare, già va bene così, capito? Sì, magari cosa ne so, magari come si dice? Magari la radio è un po' così perché è un altro apparecchio, quella non ce lo posso attaccare, sennò esci tutto il sattolo, esci, però. Vabbè, diciamo che la radio è leggermente più bassa rispetto all'altra, però il segnale è anche più forte. Vabbè, comunque già ti ascolto lo stesso, non c'è problema, capito? Ava si intendi che quando premo la portante. Vabbè, non trovo resistente. Adesso guarda il segnale, Adesso fa passando, guarda, la prova, quando sta arrivando adesso? Sei più di nove, sì. E allora l'ho tirato con pochi dati, dicevi lì. Adesso abbasso. Ok. Adesso abbassato, capo, giù per giù è lo stesso. Su per giù. 747 in arrivo. Lo so, però non te ne accorgi perché siamo vicini magari, in distanza già si vede. Ma visto che ce l'ho, lo faccio andare un pochettino, minchia, ma l'alimentatore lo faccio andare tutto, tutto. Io so che l'alimentatore c'è, 25. No, un 7 ampere. 7 ampere? Sì, ma su c'è tutto canto però. 7 Ampere, però è pilotato con l'altro da 5, capito? Quel baracchino. Quindi se lo assorbe tutto lui. Allora, la linea vecchia se lo attacchi sotto un alimentatore da 20, ti rende al doppio di quanto deve andare. Lo so, ma non ce l'ho adesso. Ma se compri uno di quelli dai cinesi che lo vendono, ci sono anche da 50 ampere, questa è una gassata, 30 euro. Me l'avevo detto, eppure lo voglio provare, però non mi crei QRM a che ti ricullano una cosa. Devi prendere quello senza ventola, quelli con la ventola l'hanno ribigliato perché sono una cagazza. Adesso, me lo devo andare con qualcuno che me lo consigli, perché non è che ci ho capito molto bene. È una cazzata con le gambe, dai, tutto segnato. No? Mi sa che costa sulle 28 euro quello da 30 e poi c'è mi pare da 50 a 40 di euro trucco, anche di meno Capo, ma devo andare con una persona che mi indichi quello con la ventola va un casino, vatti, mamma mia. No, con la ventola non lo prendere, per carità. Ma non ho detto va un bel di guerremo, un bel di casino. Sì, perché c'è la ventola, io addirittura ce l'ho uno da 40 ampere. Addirittura c'è la ventola, si entra in funzione, ho messo un interruttore per escludere la ventola, ma è un casino che fa, te ne entra dentro la radio e ti fa un QRM, addirittura da 2 se ne sarei a 9, capito? No, non rimbosso videghi, sì, no. E infatti io ho sempre avuto alimentatori normali, anche c'è una merda, so. Si conferma che sono una merda. Cazzo, va giù questo della GBC, vi dava radio, boh. Ce l'ho sempre andendo qua, io ne ho uno da 10 ampere qua con gli strumenti, ma è micidiale, no, di più, 15 ampere lo faccio io e pilota benissimo. La via 1 è in magazzino, ha già fatto male, hanno pulsato il ziruga, c'aveva 10 ampere, c'aveva, ha fatto male non portarmelo, bello dell'Airbex, ma bello per ombre. Io quello che ho giù in campagna è 25-30 ampere, però è stabilizzato, capito? Non è a ventola e va benissimo. Appa, eppure glielo dico a babbo se me lo dà, se non se ne va di nulla me lo piglio io. Ma non è contrario, quelli dei cinesi non servono a niente con gli alimentatori, per carità. Se lo trovi senza ventola, non tu va bene, ma quelli della ventola non li prendere, se ce l'ho io qua buttato da 40 ampere. Ora abbiamo un pro. Con la ventola, Dio mio caro, lo casino che pazzia. Ui, ha già provato una volta, ha già stacco a fare una cosa, vai, lampa di tutto, vai. Sì, perché non è vero la candela, capito? Non servono, ecco perché cosa non servono a nulla. Già l'alimentatore è buono, se vuoi un bel alimentatore, pigliate un alimentatore stabilizzato, cioè sta ventola, con 25-30 ampere è risolto il problema. Prova quello, capito? Quello va bene. Bestiolina, cazzo, mi pare che abbia preso 10 ampere. Quello già a pompa, chi se già me lo fa andare a lineare? Cos'è, 747? Sì, 747. Quelli piccolini sono, è già compreso. Quelli da 100 watt, mi pare tu. Ma c'è il finale della MOSFET, è una meraviglia, Lo so, ma no, non li dà 100 watt, nemmeno di meno, se hanno darà una 70-80 watt, non ce l'avevo io. Ma dai sia, dai sì, Marasuce. E io ho anche il coso, il B231, ma non è attacco, perché cazzo fa un casino qua, se non disturbo, capito? Io già lo posso attaccare, no, che? Vabbè, non aiutare, ma la corrente. Lui, stato con questo mazziario di baguata, era un letto, se no. Già lo so, Guglia, ma quant'è quello, la 150? Quale? B231, cos'è modificato? Questo che c'ho io è da 150 watt, c'ha le resistenze modificate all'interno, capito? E bocchino, che cazzo! Acco di bocco, già! E anche il jumbo spinge forte, solo che consuma un casino di corrente. Chi su anda, Se attacchi lì su, dalla bulletta per arrivare da Sarita, E ogni tanto, qua, così ma non è che non attendi tu? Ma io non l'ho più attaccato, perché a parte che non c'ho antenna, non mi fido, fissato con l'RG58, ma ti puoi fidare a dare molti zappi, capito, in uscita, perché si fa un levato c'è. Quant'era un Jumbo? Eh? Quant'era un Jumbo? Ma quello è 500. Lì ci vuole qualche altra cosa. 500, ma non te ne dà 500, fai che te ne dia 400 o qualcosa, no? Poi dovevo pilotare con gli spettoni da 213, discesa da 213, antenna che tiene. Curamanto va in Kiwi, schirreggia più forte, ti dà più forti con chissà cosa. Curamanto va diverso. Ma pompava forte chissà cosa però. Però io quando l'ha attaccato, quando scala, non più me. Se non è stata per il vento, ma era coordinata con l'antenna. Era stata ancora su piazzata, cioè avevo tutta la discesa dei 213, PL Bacchilite, spezzone in 213, era una bombetta. Non so, purtroppo la Mantova è pesante, per quello che se l'ha rotta. Non è la rotta perché è pesante, la rotta perché io l'ho scassata, gli ho fatto. E ci avevo messo il tubo d'acqua, e poi ho sforato al centro per allungare il tubo, ho fatto una tronfata più grande di me. Dovevi lasciare com'era. Allora, andavo a buccarlo il tubo per buco, cioè, buco passante, mai più fare errori del genere. Quella è già cremata, non ha retto, magari il bullone era pure mezzo dolce, e ti ha cremato tutto. Il bullone ha piegato il bullone, ha piegato il tubo, ha piegato tutto e si è colcato, era un casino. Poi non riuscivo a smontarla lassù, quindi come sempre sono dovuto salire con la mola a tagliare il tubo, capito? Casinare tutto ha combinato. Questo è la grandella, ma rovinato, capito, di polo. Lo so. Sono cose che succedono, dai. Che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare? A vedere adesso sono normale, com'è? Santiago 9, sì. 7, 8, 9, dai, due durati. Cappa, ma anche la radio si abbassa. Sì, parecchio, ha abbassato anche il segnale e ha abbassato anche la radio automaticamente, capito? No, ma non è più così. Così va bene, 9.20 sì, 9.20 e 9.25, dai. Cappa, dai. Ma adesso ti lascio, dai. Ha fatto un piacere sentirti, ce la risentiamo alle prossimine, ciao ciao. Ciao, anche dai, io stavo chiudendo, sono entrato perché c'eri tu, Dai, saluta a tutti, correti per me. Ciao, anche là, che la riascolta. Ciao, ciao a tutti, anche gli ascoltatori.